credi che tuo trionfo l'eccidio del rea. Ma la Gigi tuoi detti ora comprendo. Dopo distrutta Alcina, le fortune in amor mi serva il cielo, contornelo dal cuore. Oh mio rossore, godi o bello il tuo sposo, e tu garzone, la tua consorte in pace, il cielo volle.